Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto! Underneath the city lights, there is a world few know about, where rules don't apply, no, and you can't keep a good girl down. Time, gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. Baby doll just comes alive. Wow. Under the spotlight. Wow. All the girls wanna fall in line. We say, hey. Here come the ladies, about to give a little show. Hey. Here go the boys, he gonna show a little more. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah. Benedica che polmoni la ragazza, ebbene sì. Lei, Christina Aguilera, questo, la colonna sonora del film Burlesque del 2010, la canzone si intitola Show Me How to Burlesque, fammi vedere come burleschi praticamente, è la storia di una cenerentola moderna che praticamente entra in questo nightclub gestito dalla grandissima Cher e vuole arrivare ad essere una delle ballerine cantanti dello show appunto di questo nightclub e ci riuscirà diventando la reginetta del ballo di tutti. Benissimo, benissimo, io vi ricordo che questo è Movieland, ancora una settimana siamo insieme, io sono Emanuele, vi accompagnerò dalle 18 alle 19 in questo bel pomeriggio e volevo farvi ascoltare un attimo la base che abbiamo sotto, la base di questa settimana. La riconoscete? Eh? Ma sì, dai, un film degli anni 80, Beverly Hills Cop, con il grandissimo Eddie Murphy, che sembra ultimamente caduto in disgrazia, però questa bellissima colonna sonora ci accompagnerà come tappeto musicale durante tutta la puntata. Benissimo, però noi andiamo avanti, vi ricordo che per mettersi in contatto con noi potete farlo attraverso la mail a movieland.radio@gmail.com oppure se volete potete andare a visitare la nostra pagina di Facebook, sempre aggiornata con i contenuti della puntata, la pagina di Facebook che è Movieland Italia, quindi andate a cercarci che ci troverete sicuramente. Ma noi vogliamo partire già con la prossima perché non vorremmo arrivare in ritardo. Oggi puntatona anni 80, eh? Simple Minds dal film Breakfast Club dell'84, Don't You Forget About Me. Buon ascolto su Movieland. Forget About Me, non ti dimenticare di me. Breakfast Club 1984, gli anni 80, protagonista di questa puntata, perché ascolteremo tante canzoni magari abbinate a film nuovi, però che sono state fatte in quella decade, in quel ventennio magari, perché passeremo dagli anni 70 agli anni 80 e 90 in questa puntata. Benissimo, degli anni 70 è anche il nostro protagonista della prima notizia di quest'oggi. Infatti vogliamo augurare tantissima fortuna a Paolo Sorrentino. Infatti il film La Grande Bellezza è stato scelto come candidato per gli Oscar. Ebbene sì, infatti sarà La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino il candidato italiano agli Oscar come miglior film straniero. Il film in concorso all'ultimo Festival di Cannes ha battuto la concorrenza di altri 6 titoli, tra cui Viva la Libertà di Roberto Andò, Miele di Valeria Golino e Viaggio da Sola di Maria Sole Tognazzi. L'Academy Awards nei prossimi giorni farà una prima scrematura dei titoli proposti. Il 16 di gennaio si saprà quale sarà definitivamente la cinquina dei candidati. Sorrentino ha detto che la strada sarà difficile, ma metteranno un grande impegno. Infatti per lui è un grande onore, una soddisfazione la candidatura italiana agli Oscar. Adesso ci impegneremo, ha detto, a fare tutto il possibile per ottenere il risultato. So che è una strada lunga e difficile, ma faremo di tutto, proiezioni, cene e promozioni. Questo è il commento appunto del grande regista Paolo Sorrentino. Oh, quindi grandi film italiani in America agli Oscar, come è stato già La vita è bella, come sono stati tantissimi altri film. Anche La grande bellezza ci renderà sicuramente onore. Ma passiamo alla prossima. Ah, questa è una canzone nuova. Questa è una canzone nuova perché campioni d'incasso questa settimana, ma lo sentiremo dopo con Film Up, sono i Puffi 2. Ebbene sì, i Puffi 2 che hanno battuto anche Rush, la pellicola di Ron Howard. Lei si chiama Britney Spears. Il cinema alla radio. Spazio in collaborazione con filmup.com. Dopo tutte le regole e gli orari del liceo, gli anni universitari sono unici. Facciamoci una promessa. Tra 10 anni tutti qui a raccontarci chi siamo. E allora ti perdi sui libri, ti ubriachi di libertà. E non solo, eh. Secondo me è un certo fascino. Sì? Ma chi di te? No, la casa. Ah! Cercavo una stanza e non mi sono reso conto che invece avevo trovato molto di più. Una famiglia. Universitari, dal 26 settembre al cinema. Scappa, Isabel! Una nuova identità. Dicono che sei un duro. È una città dura. Vuoi lavorare? Una seconda occasione. Sembri così a posto ora. Faccio quello che devo fare. Hanno trovato una ragazza. E Isabel? La devono pagare! Non esiste il perdono. Redemption, identità nascoste al cinema. Non ci bastava solo conoscere le celebrità. Volevamo vivere come loro. Hey, I can be the answer. Paris Hilton è a Las Vegas per una festa stasera. Dai, andiamo a casa di Paris. Voglio le sue cose. Oddio, ragazzo! Oddio, sono andati via. La polizia indaga sui collegamenti tra i diversi furti a Hollywood Hills. Ha parlato con qualcuno di loro? Ho parlato con tutti loro. Davvero? E Lindsay Lohan che ha detto? Ma secondo te, quei quattro e sono fidanzati? Le tue parole non bastano, perché io non dimentico. Puoi riprenderle una ad una ed andare via. L'ha letto? Sì. No, io ho con lui. Perché io anch'io. Con lui anche te? No, con lei. Ho avuto una paura di te. Scusi, abbia pazienza, ma il vetro? 20 euro ho detto, il vetro ti te lo insaponavo, non che te lo lavavo. Lo sai benissimo, la legge italiana non consente a noi diversi di avere un matrimonio, di avere una vita normale, felice. Io mi sposo con te o con lui e te ti sposi con lui o con lui. Ma se noi non le avessimo detto niente? Avrei celebrato il vostro matrimonio tranquillamente. Suppongo che loro siano le vostre mogli. Diciamo di sì. Pensavo che fosse gay. Un bambino sarebbe bellino. Sarebbe stato facile. Un film di Graziano Salvadori. Al cinema. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Movieland. Il cinema alla radio. E anche questa settimana a Movieland arriva il momento di parlare con Erika Mellis di FilmUp, il portale cinematografico per eccellenza che potete trovare alla pagina web www.filmup.com. Ciao Erika. Ciao Emanuele. Buongiorno, allora raccontaci un po' che cosa sta succedendo. Sono stati dati gli Oscar della televisione in America, ossia gli Emmy Awards del 2013. Sono state premiate tante serie televisive e sono stati premiati tanti attori anche famosi. Le serie, alcune sono famose in Italia, altre stanno arrivando. Raccontaci. I premi sono stati consegnati domenica e tra i vincitori ci sono nomi famosi tipo Michael Douglas, che ha conquistato il premio come miglior attore protagonista in una miniserie grazie a Dietro i Candelabri. Era stato presentato anche al Festival di Cannes e si racconta la storia di un eccentrico musicista, Valentino Libereis. Tra gli altri premiati c'è per la seconda volta Claire Danes, che è la protagonista di una serie molto intrigante, molto conosciuta anche in Italia, se non sbaglio programmata da Sky, Homeland Caccia alla spia. Invece la migliore serie drammatica è Breaking Bad, che qui in Italia è ancora poco conosciuta, ma penso arriverà a breve. Tra le serie comiche sono state premiate Modern Family, che insomma è conosciutissima, certo. È anche molto divertente, il protagonista di The Big Bang Theory, Jim Parsons. Comunque c'è una cosa che si evince da questo panorama televisivo americano, che è molto diverso dal panorama televisivo italiano, perché grandissimi attori del calibro di Michael Douglas, ma anche altri, ricordiamo Kevin Spacey, eccetera, eccetera, si prestano senza nessun problema a delle fiction televisive televisive, cosa che in Italia non succede. Non vedrai, io penso mai, un Carlo Verdone fare il medico in famiglia, per esempio. Guarda, sono assolutamente d'accordo, e tra l'altro penso sia un peccato, perché queste serie molto spesso sono veramente dei gioielli fatti benissimo, sia a livello recitativo, sia come impianto, sceneggiatura, certo. Ed è un vero peccato. Infatti tra gli altri, per esempio, è stata premiata Laura Linney, che è comunque un'altra famosa attrice, per The Big C, e poi Jeff Daniels, che è il protagonista di The Newsroom, un'altra serie che qui non è ancora molto conosciuta, però insomma speriamo che a breve lo starà. Tra l'altro Jeff Daniels ha raccontato un simpatico aneddoto, dice di essere confuso spessissimo con Bill Pullman, un altro famoso attore che, se non se ti ricordi, era stato il presidente di Independence Day. Ah, ecco, volevo chiederti, ma Jeff Daniels chi è, il presidente di Independence Day? No, mi sono confuso. Ah, no, io il pullman è che l'ho preso ieri. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti, perché ci sono tanti film in sala nuovi e vogliamo parlare appunto di alcuni di questi. Arriva Arriva sotto assedio di Ronald Emmerich, giustamente il regista di Independence Day. È un film adrenalinico veramente divertente, piacevole da vedersi, con grandissimi attori: Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, James Wood, ed è ambientato, come puoi immaginare, visto che il titolo è completo, è Sotto assedio, White House Down, alla Casa Bianca, che viene presa d'assalto da un gruppo armato paramilitare, e l'unico che, diciamo, può risolvere la situazione, salvare il presidente e liberare gli ostaggi, è un poliziotto di Washington, John Cale, che si trovava nella Casa Bianca al momento dell'assalto. Ma guarda che caso, benissimo. Roland Emmerich comunque ce l'ha fina con la Casa Bianca, perché l'ha già fatta saltare una volta in Independence Day appunto, quindi insomma. E questo film sembra la fotocopia più o meno diciamo riuscita del film di qualche mese fa, sempre appunto Olympus Has Fallen, Attacco al potere, sì. Che anche lì vedeva un presidente di colore, vabbè, eccetera eccetera eccetera. Comunque quel cast lì mi piaceva di più, perché c'era Morgan Freeman, Gerard Butler, Aaron Eckhart, vabbè, comunque andremo a vedere anche questo Sotto assedio e vediamo che cosa ha saputo fare Roland Emmerich. Tra gli altri film ti segnalo, bene, una produzione italiana, Universitari molto più che amici, firmata da Federico Moccia, e che racconta le storie di sei ragazzi universitari, come vuole il titolo, che vivono tutti a Villa Gioconda. Villa Gioconda. Sì, già il ma dai, c'ho i peli di punta, c'è una roba bestiale. Vabbè, Federico Moccia, molto interessante. Sì. Federico racconta la storia di questi sei universitari, tre ragazzi e tre ragazze, che piano piano all'inizio non si conoscono, però poi diventano una vera famiglia e cementano una bella amicizia, ecco. Che bello, film vietato ai diabetici come al solito. Esatto. Per Federico Moccia. Benissimo, benissimo, molto interessante il panorama anche questa settimana per le nuove uscite, mentre il box office, almeno a me, ha riservato una sorpresa. Siamo in due, assolutamente, perché anche io mi aspettavo che in vetta avremmo trovato Rush. Anche vista la qualità del film, gli attori, il regista, insomma tutto quanto, invece abbiamo, certo, i Puffi, ecco, che sicuramente è un film simpaticissimo. Io fossi Ron Howard attaccherei Fonzie al chiodo e andrei via, cioè basta. In effetti. Vabbè, comunque i Puffi al primo posto con 1.975.000 euro, Rush al secondo con 1.761.000 euro, e poi arriva Come ti spaccio la famiglia, che comunque sta facendo un bel incasso, mi sembra, no? Perché è diverse settimane che è lì nel podio. Esatto, sì, seconda, terza posizione, comunque ormai è dalla sua uscita che è tra le primissime posizioni e continua ad aggiungere euro ai suoi incassi. Benissimo, io ti ringrazio Erika per essere stata ancora una settimana con noi, esorto tutti gli ascoltatori di Movieland a visitare il portale filmup.com, perché è molto interessante, troverete queste notizie che vi abbiamo detto, ma anche molte di più, e ti do appuntamento la settimana prossima. Grazie a te, a presto. Un saluto. Movieland, il cinema alla radio. E proprio dalla colonna sonora di Rush ci stiamo ascoltando questo bel pezzo, un settantone, lo cantano i Mud, che erano una band glam rock formata nel 1966. Invece questa è Dynamite del 1973, questo pezzo bellissimo, appunto incluso nella colonna sonora di Rush, il film di Ron Howard, che è anche questa settimana nelle sale e che veramente merita di andarlo a vedere. Quindi mi raccomando, stasera tutti a vedere Rush. No, stasera c'è una cosa più importante, ma ve la dico dopo. Intanto ci ascoltiamo la prossima, perché anche la prossima arriva dagli anni 70. Oh, chi non la riconosce? No, abbassate le mani, nessuno la può non riconoscere. My Sharona di Knack, da Giovani Carini e Disoccupati, un film del 1994, ma questa canzone arriva direttamente dal 79. Buon ascolto con Movieland. Oggi a Movieland vogliamo parlare di una realtà associativa attiva nel napoletano. Da poco ha aperto l'Associazione Scuola di Cinema Italiana, a tutti gli effetti una scuola di cinema partita dal volere di alcune persone, tra cui Francesco Afro De Falco, Dalila Penza, Salvatore Forte e Luca Cestari. Queste persone hanno creato questa scuola di cinema, ma parliamone direttamente con loro e sentiamo cosa hanno da dire. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, siamo un po' affollati qui. Una bella intervista corale, che è sempre quello che è interessante e carino. Benissimo, allora siamo con Dalila Penza, che è la direzione artistica, Francesco Afro De Falco, corsi di regia, Salvatore Forte, comunicazione e marketing, e Luca Cestari, che si occupa della parte di fotografia e cinematografia. Allora, raccontateci come parte questa iniziativa e cosa andrete a fare. Questa iniziativa nasce da un'idea di 2 anni e mezzo fa circa, che poi nel tempo si è evoluta, insomma. La scuola di cinema, questa struttura è stata voluta prevalentemente per offrire un punto di riferimento a chi vuole introdursi in questo mondo, il mondo del cinema, e quindi aiutarli sotto tutti i punti di vista, quanto riguarda la formazione professionale nel settore, sia per quanto riguarda la produttività poi. Quindi con l'aiuto della GMC, che si occupa di progettazione e realizzazione di meccaniche cinematografiche, punto di riferimento per la maggior parte delle aziende italiane che forniscono equipment cinematografico, quindi tutto ciò che è materiale, meccanica nel cinema, quindi carrelli dolly, shoulder cam, slider, steadicam. Per quanto riguarda la scuola di cinema, a che target vi dirigete? Sì, semiprofessionisti, professionisti, a quale target volete raggiungere con la scuola e che tipo di formazione date? Dunque, il corso di formazione, ovvero i corsi di formazione, perché ce ne sono vari, puntano a una formazione che ha un solo obiettivo, quella lavorativa, perché come diceva prima Luca, l'azienda è supportata dall'azienda GMC, e quindi la realizzazione di strumentazione e meccaniche per il cinema. Il laboratorio progetta e realizza dalla A alla Z queste strutture. Il corsista, certo, dunque avrà la possibilità di entrare in confidenza con lo strumento tecnico, quindi non soltanto dal punto di vista teorico, dato che siamo l'unica scuola in Italia ad avere annesso un laboratorio di meccaniche cinematografiche, e quindi avrà un rapporto diretto col mezzo, lo smonterà, lo rimonterà, capirà come si costruisce. E tutto questo poi, al di fuori della scuola, nel momento in cui si ritroverà nel mondo del lavoro, avere un'esperienza diretta col mezzo è molto utile, quindi non soltanto una preparazione teorica ma soprattutto pratica. Certo che questo tante volte è quello che manca appunto in tante scuole di cinema. Quali sono i corsi che mettete a disposizione dei vostri alunni, diciamo? Allora, i corsi sono regia, tenuto appunto da Francesco Afro De Falco, recitazione tenuto da Lello Serao. Poi abbiamo sceneggiatura, Giovanni Mazzitelli come docente, fotografia Luca Cestari, montaggio video Alessio Perisano, make-up artist Mary Samele, e corso di operatore camera tenuto da Francesco Murra e il tecnico del suono Francesco Guarnaccia. Quindi avete iniziato da poco la vostra andatura, sono già cominciati i primi corsi, state ancora accettando iscrizioni? Allora, le iscrizioni chiuderanno a fine settembre, quindi a giorni, e i corsi inizieranno a metà ottobre. Benissimo, date i riferimenti per trovarvi, sito web, email, telefoni, eccetera eccetera. Allora, perfetto, per trovarci innanzitutto è molto semplice: la nostra scuola è centralissima in Napoli, è a Piazza Trieste Trento numero 48, facilmente raggiungibile da qualsiasi punto della nostra città. Il sito internet è www.ascicinema.com, mentre l'email è info@ascicinema.com. Benissimo, noi ringraziamo la ASCI, scuola di cinema, ma non solo, anche comunicazione, anche prodotti e attrezzature per il cinema. Ringrazio le persone di Danila Penza, Francesco Afro De Falco, Salvatore Forte e Luca Cestari per essere stati con noi in questo pomeriggio. Grazie da parte di tutti gli ascoltatori di Movieland. Grazie a te. Io aspetto Emanuele. Un saluto, Emanuele. Grazie. Io mi chiamo Dalila. Ciao Emanuele, in bocca al lupo. Ciao, è stato un piacere, ciao. Movieland, il cinema alla radio. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am. smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you powdered, you're a selfie man. And your fans, they all come crawling. Slap you on the back and say, Back in the Middle with You, dal film Le Iene, Reservoir Dogs di del grandissimo Tarantino. Questo era gli Steelers Well con appunto Stuck in the Middle. E benissimo, e da una bella canzone americana passiamo a una notizia americana. Infatti la catena di televisione HBO è pronta a mettere in cantiere Criminal Justice, una miniserie in 7 puntate pensata e offerta inizialmente a James Gandolfini. L'Hollywood Reporter ha appena annunciato che al posto del grande Gandolfini, scomparso improvvisamente lo scorso giugno, ricordiamo, in Italia, prima di assistere al Festival di Taormina, ci sarà appunto nel suo ruolo Robert De Niro, l'ex Tony Soprano. Tuttavia sarà comunque citato nei credits in qualità di produttore esecutivo. Basato sull'omonima serie britannica prodotta dalla BBC nel 2008, Criminal Justice è stato inizialmente pensato come serie televisiva declinata in più stagioni. Il progetto poi è andato in stallo e è stato successivamente rivisto e riadattato a miniserie. De Niro avrà il ruolo di Jack Stone, uno di quegli avvocati che in America sono definiti cacciatori di ambulanze, cioè pronti a difendere chi è rimasto vittima di un incidente dovuto a qualche negligenza altrui. Lo ritroveremo però coinvolto in un caso in cui dovrà difendere un giovane accusato dell'omicidio di una ragazza di New York. Quindi le cose per il nostro Bob De Niro si complicheranno. Oh, e vogliamo andare un pochino avanti con un'altra bella canzone americana, naturalmente newyorkina come Robert De Niro, e newyorkese si dice, magari, ecco, newyorkina è un retaggio dello spagnolo che ogni tanto mi rimane. Lei si chiama Irene Cara, questo è Saranno Famosi, la colonna sonora naturalmente della serie andata in onda anche sulla Rai, su tutte le catene penso italiane, negli anni 80 e gli anni 90. Questa è appunto Fame, Irene Cara, questo è Movieland. Io sono Emanuele, fino alle 19 insieme, buon ascolto. ricordarvi un appuntamento importante da non mancare, è nelle sale da giovedì il film di Graziano Salvadori Sarebbe Stato Facile. Vi ricordo che nella puntata precedente, della settimana scorsa, di Movieland ne abbiamo parlato con una bella intervista a Graziano, quindi se volete andatevela pure a riascoltare. Questo film che ha una tematica molto attuale, che parla dell'omosessualità, e dell'omosessualità ne stanno parlando in questi giorni su internet, dappertutto, sui forum eccetera, e ne ha parlato anche il nostro prossimo ospite, che è Simone Longo, il cinefilo qualunque. Ciao Simone. Salve a tutti i cinefili di tutto il mondo. Benissimo, allora tu hai affrontato con il tuo ultimo video sul tuo canale di YouTube, appunto, Un Cinefilo Qualunque, hai affrontato il tema dell'omosessualità nel cinema. Poi parleremo successivamente anche di Barilla, perché insomma ci sono state delle polemiche su una dichiarazione che ha rilasciato appunto Barilla. Ma dici come la pensi tu, la tua introduzione sull'omosessualità nel cinema? Allora, per quanto riguarda questo argomento, è un argomento che ha lasciato molto parlare negli ultimi tempi anche su YouTube, prima del caso Barilla addirittura. C'è stata una grande discussione, alcune persone hanno detto secondo me cose che non avrebbero dovuto dire. Però se devo esprimere la mia opinione, come ho già detto comunque nel mio ultimo video, preferisco esprimere la mia opinione dal punto di vista cinefilo, certo. Quindi da come affronta il cinema il più delle volte l'omosessualità. Ci sono vari modi di affrontare l'argomento, alcune volte ci si sofferma principalmente ad affrontarlo dal punto di vista politico e sociale. Vediamo per esempio Milk, che ne ho parlato nel mio video, che si sofferma sempre anche nella caratterizzazione dei personaggi, nell'introspettività di ciascun personaggio, ma è ovvio che si affaccia principalmente alla problematica dal punto di vista politico e a livello più ampio. Quindi un altro modo di concepire questo genere dell'omosessualità è concentrandoci sull'introspettività di chi dell'altro, quindi dell'eterosessuale, che si ritrova ad affacciarsi comunque a una realtà che non gli appartiene o che non vuole che gli appartenga, e quindi di conseguenza tutte le sue fobie, tutte le sue paure, l'omofobia comunque repressa. Si tratta comunque di persone normali che non sono omofobe, malvagi, diciamo, che discriminano, ma che comunque introspettivamente sentono, per loro è molto più difficile accettare la diversità, a livello anche generico alcune volte, che sia omosessualità, che sia il colore della pelle. Persone che di carattere non sono cattive, in finale, non sono malvagie, ma che trovano molto più difficile, appunto, come ho detto, rapportarsi con persone che sono diverse da loro. Un'altra tipologia, per dire, un modo di affrontare l'omosessualità molto, molto colorata, molto divertente, molto comica, si tende a sdrammatizzare sull'argomento e a infarcirlo di colore, di divertimento, sempre però senza mai passare alla banalizzazione dell'argomento, senza essere volgari e senza, certo, appunto, come ho già detto, banalizzarlo. Ricordiamo appunto anche di questo genere magari Il Vizietto con Tognazzi, esattamente, oppure, come ho detto nel mio video, anche a Wang Fu Grazie di Tutto Julie Newhart, quindi che vediamo lì un Wesley Snipes vestito da drag queen, che già il personaggio, comunque, considerando le pellicole che ha fatto, certo, successivamente, molto cariche di testosterone, lo vedi lì e dici porca miseria, cosa che io francamente non avrei mai pensato. Vari ruoli omosessuali li hanno fatti, per esempio, anche mi sembra Sylvester Stallone agli inizi della carriera con alcuni film, insomma, per attori che poi dopo si sono distinti per tutt'altro, quindi magari uno non se l'aspetta neanche tanto. Niente, tornando al fatto di Barilla, non so se hai seguito un po' questa vicenda che è successa. Praticamente in un'intervista su Radio 24 alla Zanzara, il signor Barilla, mi sembra Giorgio, credo, il responsabile marketing dell'azienda, istigato, perché poi alla fine fanno sempre così, istigato dai giornalisti che gli hanno domandato se avrebbe mai fatto uno spot con una famiglia omosessuale, Barilla ha risposto che la filosofia aziendale è molto tradizionalista, quindi per loro la famiglia è la famiglia tradizionale, uomo, donna e bambini. Di questo cosa ne pensi? Dunque, si erano appena un pochettino calmate le acque che subito bang, quest'altra mazzata. Certo. E si ricomincia a parlare dell'argomento. Per quanto mi riguarda, se è una filosofia aziendale è perché è una questione prettamente di marketing, penso, e non tanto di preferenze personali, anche se in questa intervista ci sono state più le le opinioni personali del signor Barilla, certo, quindi anche lui ritiene che la famiglia sia composta da uomo, donna e bambino, e quello è lo standard che va seguito nella Barilla. Però esprime anche delle opinioni personali dicendo che per lui gli omosessuali sono persone normalissime, lui non ha niente contro di loro, e fin tanto che la libertà degli altri non viene limitata da le persone di omosessuali, per lui non c'è nessun problema. Certo. Apprezza anche i matrimoni omosessuali, non apprezza invece, non tollera le adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali. Allora, questo qui sono comunque opinioni prettamente personali che possono essere condivise o non condivise. Certo. Io dico che un'azienda è secondo me libera di utilizzare il proprio marchio come preferisce e pubblicizzarlo nel modo che preferisce. Io dico che comunque ogni azione ha le sue dovute conseguenze. Certo. E che questa cosa che ha detto lui in quella radio non l'avrebbe dovuta dire, perché così facendo si sono alzati migliaia di polveroni di omosessuali, comunque si sono arrabbiate anche persone eterosessuali che hanno ritenuto il suo comportamento indegno, e che quindi sono aperte mille petizioni dicendo boicottiamo la Barilla, boicottiamo qui, boicottiamo lì. Quindi secondo me avrebbe dovuto glissare sull'argomento, lasciar perdere, per evitare di... Avrebbe dovuto dribblare magari un po' di più le domande incalzanti degli intervistatori. Sì, avrebbe dovuto magari rispondere in maniera un pochettino più svagheggiante, essere un pochettino più vago. Avrebbe dovuto fare il vago. O glissare semplicemente, perché effettivamente con questo modo penso, almeno io credo, penso che sia comunque conseguenziale, facilissimo, certo, da intuire, che perderanno non pochi guadagni. Ma staremo a vedere che cosa succederà con la Family Barilla. Intanto c'è il nostro amico Antonio Banderas con la gallina che ci fa le fette biscottate più alte e i cornetti zuppati nella Nutella, quindi siamo tutti contentissimi. Io che brutta fine che ha fatto. Va bene, dai, io Simone ti ringrazio per essere stato ancora una settimana con noi. Grazie a te. Io vi ricordo il canale di YouTube di Simone, Un Cinefilo Qualunque, seguitelo, seguite i suoi video. Niente, ti saluto e ti do appuntamento la settimana prossima. Moviland, il cinema alla radio. Ebbene sì, oggi ci siamo persi in chiacchiere, siamo a un passo dalla fine del programma di Movieland, come tutte le settimane dalle 18 alle 19, stiamo quasi arrivando, quindi dobbiamo tagliare qua, ci dispiace tantissimo, io volevo fare... le scuse, le mie scuse agli ascoltatori, perché c'era un'altra cosa da ascoltare, un altro collegamento da fare, ma non ci riusciamo, quindi Sara con la sua rubrica culinaria la dobbiamo rimandare alla settimana prossima. Questo è Movieland, come tutte le settimane naturalmente, io sono Emanuele, torniamo la settimana prossima con un po' più magari di spazio e di vedere se riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare, ok? Mi dispiace tantissimo, ci sentiamo la settimana prossima, grazie comunque di essere stati con noi. Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!